Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Cioè, quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui? Perché, avvocato? No, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli scherzi cretini e di cattivo gusto. Mi faccia parlare! Lo faccio stare zitto! Non si permetta mai più di chiamarmi! Lo faccio stare zitto! Ma qua, non so, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Raffaele, alla radio alta, se la bassa ci fa una cortesia, sentiamo meglio tutti. Grazie per l'ospitalità, buonasera a tutti. Ricordate i bei tempi passati, quando alla zanzara trionfavano la cortesia e la gentilezza? E se si potesse tornare indietro? Insieme abbiamo combattuto e vinto tante battaglie, acquistato un camper per Lucia, pagato la multa della povera Susanna, sostenuto il pensiero libero di Mauro da Mantova. Ma la battaglia che ci troviamo davanti ora è la più grande di tutte. Questa potrebbe essere l'ultima settimana della zanzara. Io sono Lorenzo Bossi Fedrigotti e vi chiedo di combattere per un'ultima volta. Convinciamo lo stanco Cruciani a tornare il prossimo settembre. E se non avesse più l'età per lottare in questa arena di sangue e merda, speriamo almeno in una nuova stagione di zanzara all'insegna della tenerezza. Visita lastagionedellamore.it e firma per chiedere un altro anno di zanzara. Un anno di amore. 19:29 minuti, 824-0024, ci sentiamo tra poco. Cosa? Sono deluso e sto piangendo. Vieni. No. E sto piangendo. Io ti ringrazio, Giuseppe. Ho sentito che forse le zanzare le tirano via. Capezzone. Sì, ma allora, nell'ordine, numero uno. Barizone ha rotto il cazzo con questa economia che dura sempre più del previsto. Secondo. Nel vostro sito funzionano solo le pubblicità e poi non parte niente. Terzo. L'app non la sto neanche più usando, ma non funziona neanche l'app. Quattro, vaffanculo a tutti. Rovina! Tu sei un pezzo di merda, tu sei il marchettaro. Tu sei il marchettaro. Se tu morirai prima di me, io ti terrò la mano. E se io morirò prima di te, tu mi. Dunque, se io morirò prima di te, quindi io ti terrò la mano. No, tu mi terrai la mano. Allora, quello che resta vivo tiene la mano a quello che sta morendo, ok? Tantissimo il sesso anale, ma hai tanta paura? Sì. Sì. Ma io vi denuncio tutti. Maledetti. In collegamento da Roma, David Parenzo. Ma non dico più la sette, ma rotti con gli occhi. Buonasera, cari amici, grazie. Grazie ovviamente all'emittente La 7. Ma vai a mi cagare. Monte Rosa 91 20 149 Milano. Grazie. Avete rotto il cazzo. Tu sai uno dei motivi per cui io mi voglio veramente cavare dai coglioni prima o poi? I ritardi di Barisoni mi hanno rotto veramente il cazzo. Due minuti, ma vaffanculo. In generale dico vaffanculo, non alla singola persona. Ma che roba è? Ma vaffanculo. Due minuti sottratti alla zanzara sono due minuti in più del di PIL per il paese. Del paese. Sì, esatto, di PIL. Cioè, solo valgono due minuti punti di aria PIL, pura. Due. Dici, due minuti di aria pura. No, valgono due punti di PIL. Due punti di PIL. Perché tu fai perdere. perdere punti di PIL. Ma vai a cagare. Adesso il tormentone tutta la sera con sto PIL. Il tormentone con sto PIL che si perde. Un minuto, mezzo punto di PIL in meno, eccetera, eccetera. Io purtroppo sono qui e ne sono drammaticamente complice. E mi autodenuncio per questo, lo dico subito. Mi autodenuncio. Come Pannella che si autodenunciava. Io mi autodenuncio. Porro su cosa? Adesso parte la cosa, hai appaltato, hai appaltato, eccetera. Parte con porro su autostrade, vai, che non me ne frega nulla a me di questo argomento. Comunque, ragazzi, il grande dibattito è: hanno vinto i Benetton questa trasmissione, ho vinto il governo, ma non ho regalato a nessuno. Io ti faccio fare un'azione di responsabilità. Tu hai regalato questo spazio alla concorrenza, a Mediaset. Lo hai svenduto. Quanto ti pagano? Quanto ti pagano per aver svenduto? Ti posso dire niente, sempre meno di quello che uno dovrebbe darmi, sempre meno. Ai signori di Mediaset, sempre meno. L'entusiasmo di Conte che dice interesse pubblico ha avuto la meglio su un grumo di interessi privati. Guardami, quando io sento Conte mi viene il sangue al cervello, c'è sempre il nemico, è sempre Travaglio, è sempre l'odio nei confronti di qualcuno, e questa cosa è stata fatta per i morti del Ponte Morandi, sono loro che sfruttano i morti del Ponte Morandi. Questa cosa non deve essere fatta per i morti del Ponte Morandi, ma perché non ci siano altri morti, se vai. Toninelli, signor Toninelli, senti qua. Toninelli stasera è in onda. Sì, senza i 5 Stelle al governo tutto questo non sarebbe accaduto. Ma che tutto questo cosa, che non sappiamo ancora un cazzo di quanti soldi dobbiamo sborsare o no? Dai, su. Toninelli stasera sarà in onda, vedrai che vediamo, battaglia. Vediamo se vai all'attacco, se hai il coraggio di andare senti all'attacco. La certo. Come no? Vediamo, come no? Ti voglio vedere andare all'attacco, ti voglio caricare. Ti voglio vedere andare all'attacco, caricare su, invece no, stare lì a fare tic tac. Gli dirò amico mio, ti prometto che gli dirò amico mio. lo farò, te lo prometto. Pensa al Movimento 5 Stelle al governo, tutto sarebbe mai accaduto. Abbiamo cacciato i Benetton dalle autostrade. Ma non è vero. Lo Stato si riprende le autostrade, che significa purtroppo più manutenzione, pedaggi più bassi, più sicurezza e vantaggi incredibili a favore di tutti i cittadini italiani. Ma tu ti rendi conto? E lo ripeto. Tutto questo, se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle al governo, non sarebbe mai accaduto. Però ragazzi, è straordinario, cioè, perché la propaganda è ovunque naturalmente, ma mi sembra veramente una pubblicità questa, mi sto ricordando di una pubblicità: senza di noi questa cosa non sarebbe accaduta, senza di noi le tariffe che diminuiscono, le strade finalmente, no, i lavori sulle strade che non ci saranno, i blocchi sull'autostrada del mare che non ci saranno più, è pazzesco una cosa del genere, l'autostrada dei fiori in particolare, è pazzesco, e tu zitto, tu lecca culo del governo, zitto e silente di fronte a questa porcheria, ma quale di fronte zitto a questa propaganda. Io, anzi, no, zitto no, ma io sono silenzio, contro il linciaggio zitto dei Benetton. Sono assolutamente contro il linciaggio dei Benetton. Assolutamente. Guarda, ci sarebbe da rivalutare Pappalardo che fa lo spot e Gile Arancioni. Guarda, ci sarebbe da rivalutare il generale. Guarda, non è molto diverso il generale da Toninelli, eh? Beh, adesso, cari italiani, dimmi. L'Italia risorgerà. Senti il matto. Solo se noi lo vorremo. Prima cacciando via coloro che hanno distrutto la nostra casa, poi ponendoci tutti. Ma cos'è sta musica? Che ne so, una sua composizione. Costruire un futuro. Una sua composizione. Deve essere radioso e sereno. Ma che c'è? Soprattutto allora? Per i nostri figli. Ma è pazzo. Vi esorto ad avere coraggio. Sì. E ad agire in prima persona. A fare che? E questa è la sfida che vi lancio. Che fa? Si cambia musica. Qual è la musica? Papalà. Ma cos'è sta roba? Ma come si permettono di associare? Ma io veramente mi dis... Ma io ti faccio chiudere la radio. Ma come si permettono di associare alle parole di Pappalardo il jingle della 7? Ma siamo pazzi siete. Meluzzi torna alla carica, malattia troppo pubblicizzata, sempre il coronavirus, di cui per fortuna parlano in pochi, a parte quella cazzata sui raggi ultravioletti. Hai visto che è uscita quella cosa là sui raggi ultravioletti? Ho visto, che sì, mi sembra molto strano. Eliminerebbero perché... in un secondo, io spero di sì, ma non è che ci do molto credito. Me lo auguro, ma non si spiega perché invece in Israele il contagio riprende, negli Stati Uniti pure, in California c'è un grande problema. Non è che c'è ovunque il sole a 40 gradi. Però in California, ad esempio, come tu mi insegni, visto che conosci la geografia. Meluzzi, però. Fammi sentire Meluzzone, dai. Allora è chiaro che questa è la malattia più pubblicizzata e più tecnicizzata e più politicizzata della storia della medicina, persino più dell'HIV. Allora io non so se dietro a tutto questo ci sia una strategia, tendo a pensare io di non sì. So niente, so niente. Guardate che io non sono un cretino, lasciatemelo dire, non sono un virologo, ma con la formazione del medico legale, avendo insegnato per anni psiconeuroendocrino immunologia da neurologo, so di quello che parlo. E quindi è chiaro che ci troviamo di fronte anche ad una colossale truffa, soprattutto perché fino a che non si potrà infilare nelle chiappe di qualcuno quegli 800 milioni di vaccini preparati dall'AstraZeneca, di cui l'Italia ha già pagato 180 milioni e la Germania e la Francia e l'Olanda e gli altri 800 milioni, è chiaro che dovranno metterci nel sedere qualsiasi cosa. Cruciani, pezzo di merda prezzolato, che non sei altro, brutta puttanella ben pagata. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora, agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAIG 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria, info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. La zanzara. Paco, vaffanculo. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Sì, io vedo molto negativo. Portateci via tutto quel poco che abbiamo, ma non la zanzara. Forse dovremmo avere in video collegamento il professor Meluzzi. Noi. Allora, posso dirti una cosa, David? Penso che in questi giorni abbia ragione Adinolfi quando dice che, riferendosi a quel parroco che si è messo a recitare una preghiera, no? Dentro la chiesa si è messo a recitare una preghiera contro la legge che stanno per approvare, vogliono approvare, in realtà è tutto ancora da vedere, sulla omofobia, cioè sulle parole di odio nei confronti dei gay, diciamo, parole di odio e non solo nei confronti dei gay. Allora io dico una cosa, uno potrà pregare dentro la chiesa? Cioè potrà pregare liberamente, si potrà opporre a questa legge? Avrà il diritto di farlo con una preghiera in chiesa a favore della famiglia, a favore di mia nonna in carriola? No, perché sembra che uno non possa, capito? Cioè, sembra che uno non si possa opporre. Può dire che è a favore della famiglia tradizionale? Sì. Può dire di essere a favore del matrimonio tra uomo e donna? Può dire di non essere favorevole? Io sono favorevole, per esempio. Però può dire basta di essere... che non ci sia omofobia. Ma allora che vuol dire questa parola? Fare, uno può dire anche, scusami un attimo, se uno dice frocio del cazzo, deve andare in tribunale secondo te? No, sì, è semplicemente un coglione. Vabbè, sì, ragazzi. Assolutamente sì. Ma non è sì, così, amico caro. Ma non dire cazzate. Sì, assolutamente sì. Quanto è fastidioso quando quello dice amico caro, quanto è fastidioso. Allora, intanto la signora De Mari è tornata in campo, la dottoressa De Mari, contro. È una cosa su cui potresti essere d'accordo tu, caro Davide, se ignorate il comandamento di non desiderare la donna di altri, crea un inferno in terra. Senti. Ma sì. Non desiderare la donna d'altri, perché Dio ci dà degli ordini, così andiamo in paradiso, si può darsi, anzi sicuramente così. Ma perché sono regole che, se ignorate, creeranno l'inferno in terra. No. amico mio, ci dovrebbe essere già l'inferno, no, David in terra, se uno dovesse non desiderare la donna ad altri. È una vita che uno desidera una donna, un uomo che in quel momento è di altre persone o comunque sta insieme ad altre persone, ma di che parliamo, dai? Se io vado da un uomo, da un ragazzo, e gli dico: ehi, vuoi vedere una donna nuda? Lui mi dice: sì, sì, grazie, certo, molto volentieri. Perché? Dunque. È lo stesso discorso dello zucchero. In una situazione in cui le donne nude non ci sono, noi veniamo spinti, i maschi vengono spinti a cercare le donne nude perché così si eccitano, hanno un'erezione. L'erezione è importante perché l'erezione è un fenomeno vasodilatatorio, arriva sangue al pene. Il pene è meglio irrorato quando si tratta finalmente di poter fare l'amore, è già un po' addestrato e ce la fa. E dunque non ho capito qual è il punto. Qual è il punto? Non ho capito che... Ah, sulla pornografia, senti. Adesso la pornografia è diventata molto hard e diventa sempre più hard. Non solo si vedono vere e proprie penetrazioni, ma quelle non sono figurette fatte col computer, sono persone vere. Quindi ci sono persone che subiscono penetrazione per denaro. Ah, ma sai che non me ne ero accorto io, sai? Cioè, sai che non me ne ero accorto, signora De Mari? Cioè, non me ne ero accorto di questa roba qua. Non mi ero accorto che le persone per denaro fanno quello che fanno. Cioè, ci voleva la sua spiegazione questa roba qua. Però proseguiamo sul discorso delle donne nude, che l'uomo vuole vedere le donne nude, che anche questa qua è una cosa, anche questa cosa particolarmente originale, no? Quindi il fatto che nel cervello dei maschi ci sia il desiderio di vedere una donna nuda non vuol dire che questo desiderio debba essere accontentato. Il fatto che noi abbiamo desiderio di zucchero non vuol dire che questo desiderio debba essere accontentato. È la stessa cosa. Ed ecco il punto d'incontro con Parenzo: con il porno diminuisce la virilità, il porno si mangia il cervello. Ma io ti denuncio, ma io non ho sei nessun punto in contatto con la De Mari. Sei d'accordo con la De Mari, con il porno diminuisce? No, è la regia che manda sì. Vi faccio chiudere la trasmissione, chiedo il sequestro immediato del disco della emissione. Si modificano le sinapsi, si diventa dipendenti, in primo luogo diminuisce la virilità. Scusate, chi è che guarda gli altri accoppiarsi? I maschi bassi di rango nel branco. Guarda un altro uomo accoppiarsi? Il servo che entra nella stanza dove il padrone sta intrattenendo la fanciulla. Continuare a vedere queste cose abbatte la formazione dei spermatozoi, abbatte il testosterone. Non desiderare la donna da altri. Non desiderare la donna da altri. Non desiderare la donna che non ti ha scelto. Impara a desiderare la tua. Impara a conquistare una donna. Impara a proteggerla. Impara a offrirle il mondo. E donne, noi impariamo ad amare i nostri uomini. Impariamo questa cosa meravigliosa che è la sessualità, che è il più grande dono di Dio. La fede, sembra un manifesto parenziano. La fedeltà, sei d'accordo con la De Mari? Ecco il punto tutt'altro, d'incontro. Tutt'altro, la professoressa De Mari. La professoressa De Mari e David Parenzo si incontrano. No. Punto di congiunzione. Punto di congiunzione. No! Il restare insieme, il restare uniti, la fedeltà è una roba da cavalieri medievali. Ti ho scelto e non ti tradirò mai. Qualsiasi cosa succeda, io sarò con te. Se tu morirai prima di me, io ti terrò la mano. E se io morirò prima di te, quindi io ti terrò la mano. No, tu mi terrai la mano. Allora, quello che resta vivo ti terrà la mano, casino. Quello che sta morendo, ok? Ida da Roma, dai, Ida, dimmi Ida. Ida da Ciao, Roma. Luciano. Di Cruciani mi chiama, no Luciano. Il mio ragazzo. Sì, Cruciani, no Luciano. Cruciani. Mamma mia. Cruciani, uguale. Ma da dove vieni tu? Dal Sud America? Da dove vieni? Io sono straniera, sono da romena. Sei romena. Romania, sono romena. Romena. Allora. Sarà. È il mio ragazzo. Il tuo ragazzo, sì. Che fa il tuo ragazzo? Puzzolente. Sì, non si lava. Non fa mai Vabbè, ho capito, ma che devo fare? Gianluca da Bologna, sì, perfetto. Adesso ci vuole dire che il suo ragazzo non si lava mai e che devi fare? Gianluca da Bologna, dai. Ciao, buonasera. Mi sentite? Buonasera. Dimmi Gianluca, dimmi. Ciao, allora io parlo da genitore che ascolta la trasmissione, penso anche voi siete genitori. Mi immagino sempre, c'è mio figlio che mi fa adirare abbastanza durante la giornata e siccome sento gli interventi di Diego Fusaro, immagino la scena di sua figlia che lo fa strippare e lui che è lì che, deve dire, che dice devo mantenere la calma olimpica di Edipo. Ma non credo, guarda, non credo. Cioè, non credo. Non credo proprio. La pianta è derivata dal capitalismo. Non credo proprio che con la figlia faccia questi discorsi, però è possibile. Perché ti sei immaginato questo? Non hai un cazzo da immaginare. Ho difficoltà molte volte a gestire la rabbia, nel senso il momento di rabbia di mio figlio, il momento in cui mi arrabbio anche un po' anch'io, e mi immagino lui che sta lì che dice... Ecco, questa è la rappresentazione, il tuo pianto del turbo capitalismo. Ma sti cazzi di quello che pensi tu, sai che ti dico, di quello che tu pensi di Fusaro, sti grandissimi cazzi. Fermi tutti. È partita l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UbiBanca. Fino al 28 luglio gli azionisti UbiBanca potranno ottenere 17 azioni Intesa San Paolo ogni 10 azioni UbiBanca, con un premio del 27,6% rispetto al valore di UbiBanca alla chiusura di borsa il giorno precedente il lancio dell'offerta. Il futuro oggi più che mai è di chi sa costruirlo insieme. Ecco perché crediamo in un'unione fondata su solidità patrimoniale, redditività e generazione di valore per azionisti, clienti, famiglie, imprese e dipendenti. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione leggere attentamente il documento di offerta disponibile sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. La Zanzara. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Scusa direttore, ma tu il 25 aprile l'hai mai festeggiato? No, non te ne frega un cazzo. Mai, perché non mi interessa. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa. Ehi, e quello che dite non ci frega un cazzo. E a me non me ne frega niente. Famo un po' come ci pare. Se mi fate una domanda e poi io quando rispondo non vi va bene. No, non ti inquietare, se no ti mando dalla professoressa. Basta, signori, buonasera, arrivederci. No, Vittorio, andate no. A fare in culo tutti quanti. Ma per l'amor di Dio, ma... E quello che dite non ci frega un cazzo. Famo un po' come ci pare. Davide. Bevo una di troppo, poi divento un altro. Di cose serie non riesco a parlare. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa. Nel racconto su Feltri, che presenta tanti capitoli, tutti i capitoli della vita di un uomo che la vita l'ha vissuta, direttore è una parola decisiva, direi che è quella che più identifica l'uomo. Ma il segnale più forte è il politicamente scorretto. Feltri ne fa una bandiera. A quel punto il direttore è ormai personaggio divisivo, amato e odiato. Un doppio ruolo nel quale si muove benissimo. E se lo dice l'Istituto Luce, rischio anche di crederci, però non del tutto. Ma cos'è sta roba? La geografia, l'Istituto Luce, cos'è? Fra poche ore Libero pubblica la biografia di Vittorio Feltri in video. Imperdibile. Ma davvero imperdibile. Cosa appunto. Dovresti comprartela e portarla a casa comunque, Davide. Comprartela e portarla che... a casa. No, sto pensando farla... una no, cosa. La dovresti invece. Fare guarda, vedere ai tuoi figli. Farla vedere ai tuoi figli. Penso che piuttosto che vedere quella serie, mi guardo tutte le puntate di Peppa Pig in russo. Rocco da Caltanissetta, vai Rocco, dimmi. Uey, buonasera a tutti. Dimmi Rocco, dimmi, dai, vai. Grandissimo piacere. Dai, vai, non voi. Ce ne frega un cazzo a noi, vai dritto al punto, vai. Anche a me. Ascolta, io volevo dirti solamente una domanda. L'altro giorno tu hai parlato. Sì, dimmi. Vabbè, non pare. Dimmi. L'altro giorno hai parlato tu del fattore che una persona si può masturbare con i piedi. A te ti fa schifo. No, io non ho detto questo. Cerchiamo di ricondurre la conversazione alla normalità. Allora, io non ho detto questo. Ho detto che io personalmente mi piacciono molto i piedi, ma non è che faccio dei pensieri... Cioè, quando sono nel rapporto sessuale mi piacciono. Non è che sono lì a farmi delle seghe sui piedi, guardando i piedi in fotografia o sull'internet, capito? Cioè... No, infatti tu avevi detto che... gli avevi detto a un ragazzo lì, ma... tu ti sei mai sognata, dicevo, la tua o la lei, e poi ti sei fatta una sega. Che cosa mi vuoi che cosa ti è successo, Rocco? Dimmi, raccontami. Allora, no, te lo dico tranquillamente. Sì, io sono separato da 5 anni. Sì, attenzione, sei separato, è separato da 5 anni, dunque? Vabbè, me ne sono rimasto dalla mia ex moglie solamente le ciabatte. In che senso sono rimaste le ciabatte, la tua ex moglie? Solamente le ciabatte a casa. Ma non ho capito, tua moglie se n'è andata da casa? Se n'è andata, perché non ne può più di uno che chiama la zanzara. Ma è evidente che uno che chiama la zanzara non può essere un buon marito. Questo è estraivi, di cosa ti stupisci? Non ho capito. Ascolta un attimo, mi sei simpatico, non prendere discussione, non parlare con Cruciani. Non prendere discussione. Io adoro quelli che dicono voglio solo parlare con Cruciani. Per me sai che è un onore. A me non mi offendete quando dite voglio solo parlare con Cruciani. Per me è un motivo di orgoglio. Ma ringrazio a Dio. Ma io dico grazie a Dio che volete parlare solo con Cruciani. Mi fate un piacere, perché a me fa schifo parlare con voi, è ovvio. Ma tu sì. Rocco, non è che te fai la pigga, te fai proprio alle pugnette. Scusa, Rocco, quanti anni hai? Quanti anni 46. Hai tu? 46. Che mestiere fai, scusami, Rocco? Io in campagna lavoro. Lavori in campagna, ma qui c'è l'area. Tu stai attaccando un coltivatore, stai attaccando un contadino. Sì, sei come al solito, sei contro chi si spacca la schiena. Come al solito, ti piace più uno acculturato che magari parla italiano bene, fornito. Infatti, l'ho visto ieri sera io. Diglielo come l'hai visto. Non devi vedere quel programma, non lo devi vedere. Non lo devi vedere quel programma lì, non va visto. Tu devi vedere Giordano, Del Debbio, la D'Urso. Le vedo tutto Giordano, tranne la D'Urso. Guarda, perché l'Adulso, non vedi la D'Urso? Che male ha fatto la D'Urso? A me con il cuore, con il cuore le cazzate non mi piacciono. Non ti piacciono, va bene, per carità, va benissimo, perché ognuno vede quello che vuole. Però ti piace Giordano? Bravo, bravo. Giordano ti piace Giordano? Guarda Giordano, non me ne frega nulla, guardati Giordano, non mi interessa. Scusami, però torniamo al punto, scusami Rocco, tua moglie... Il punto mio è, qual è? Dimmi, che siccome io ancora l'amavo e l'amo tuttora stessa mia moglie. Ma perché se n'è andata tua moglie? Perché se n'è andata? Non lo so, è così. Guarda, lo so, ci sarà un motivo, cazzo, perché t'ha lasciato? Mi sono trovato a casa. Cosa? La lettera di l'avvocato, quando mi diceva a me ci siamo separati per comprensione di carattere. Per incomprensione di gara, ma questa qua posso dirti una cosa, Rocco? Posso dirti la mia, qual è il mio sospetto? Posso dirtelo? Certo. Ti abbraccio fortissimo e ti voglio dire qual è il mio sospetto. Secondo me scopava un altro, posso dire la verità? Sicuramente, certo, è così. Come sicuramente. Poveretto. Bravo, poveretto. Ma come i figli sono con poveretto, me? Tragedia. I tuoi figli sono con te in che senso? Pure i figli, metti in mezzo pure i figli. Nel periodo estivo stanno con me, hai visto? Il periodo estivo. O lo puoi fare o non lo puoi fare, devono stare con me. Ma da quant'è che non la vedi tua moglie? Da quando ci siamo separati, da 5 anni. Non l'hai mai più vista? Caspita. No. Niente, a me mi ha rovinato proprio la vita. Come mai ti ha rovinato la vita? Cioè, nel senso, ti ha lasciato, tu sei, come dire, hai avuto altre donne dopo da 5 anni che non fai più un cazzo? Certo che ho avuto esperienze, hai sempre in testa la moglie, hai sempre in testa. Sì. Ma lei si è rifatto una vita, un altro compagno? No, quella fa compagni oggi e domani ne prende un altro. Ah, così proprio. Come la consideri? Come la consideri? Io? Buona fortuna a lei, beata lei, ma perché le donne si sa che si può parlare. Per trovare un posto di lavoro, per trovare qualcosa, basta la candela un attimo, vai su tutto. L'uomo non è così. No, non ho capito un cazzo, scusami Rocco, perché è andata via la comunicazione. Le donne si sa allora, che cosa? Le donne si sanno che dice voglio trovare un posto di lavoro, voglio fare questo. Non è che ci vuole la raccomandazione, perché la raccomandazione ce l'hanno loro. Cioè, danno via la figa così. Allargano la coscia un attimo. Beh, adesso non è che tutte le donne sono così, però, caro Rocco. Bravo. Che non è che tutte le donne sono. No, io rispetto le donne, attenzione. Però tua moglie non la rispetti. No, io la rispetto anche, beata lei. Ma io non ho capito una cosa, sta storia dei piedi, qual è sta storia dei piedi? Spiegami. che io, essendo che ti ho detto che mi sono separato da 5 anni, sì, io ancora l'amo, perché ancora non ho potuto capire il motivo perché mi ha lasciato. Amico mio, il motivo? Io a volte, ascolta, io a volte odoro le ciabatte, mi faccio delle belle sedie. Senta, amico caro, mi faccia dire una cosa, io non conosco né lei né la sua santa moglie, però santa, se mi posso permettere, non mi sembra molto per santa, questi se mi posso santa permettere per questi pochi secondi che ho interagito con santa, lei, io sto dalla parte di sua moglie. Perché se lei annusa le ciabatte e i piedi, io dico che la santa donna ha fatto benissimo a levarsi dai coglioni, d'accordo? Hai ragione. Sai come si dice? Per fingere un cornuto ci hanno tomato. Non ho capito che vuol dire il cornuto. Io non ho capito bene, ma tu veramente io voglio capire una cosa. Rocco, scusa, ma perché mi dice bravo se io le dico guarda che il paese, guarda, non stupiamoci se questo paese è finito. Non stupiamoci, per piacere. Scusami un attimo, bravo. Rocco, è bravo, diciamo. Io voglio capire una cosa, ma le ciabatte di tua moglie dopo tanti anni ormai non hanno più nessun odore. Questa è la realtà. No, cioè, lo so, però a me l'ho sceso ancora. Io sono in campagna ora in questo momento e stiamo parlando, c'ho l'odore già. Sento l'odore già delle ciabatte. Delle ciabatte di tua moglie dopo 5 anni. Sì. Io me la fate curare, però posso dire, dopo 5 anni non c'è più nessun odore, non c'è più un cazzo in in quelle ciabatte. Hai ragione, ma io lo sento, capito? Tu dici lo senti ancora. Tu hai ragione. Ho capito, ho ragione. Tutti hanno ragione. Scusa. Bravo. Fermi là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Buonasera, Parenzo. E mi faccio una prugnetta, mi faccio crucià. Bravo. Ciao, sono Matteo da Ravenna, sono un artista, lavoro nel campo dell'arte e sono disposto a diventare vegano e monaco per poter dare almeno una chiavata al mese a Daniela Martani. I love my radio. Ciao, sono Claudio da Brescia, ho 36 anni, sentivo il podcast adesso di Daniela e vorrei propormi. Sono vegetariano, non vegano perché mangio le uova del mio pollaio, ma le mie galline ovviamente non vengono uccise. Sono animalista, sono un cantautore, il mio gruppo si chiama Il Branco Barracuda e impazzirei per Daniela, però sulle 2 volte a settimana, solo con una come lei non posso garantire. Daniela, ti amo, sposami. I love my radio. Ah, e ovviamente dormo sempre con i miei gatti giganti. Bravo. Allora andiamo con Roberto dalla provincia di Salerno. Vai Roberto, dimmi. Allora volevo complimentarmi come corruttore dei giovani. Hai successo. Come corruttore di giovani, ecco l'altro. Ecco l'altro. Corruttore di giovani, ma vai a cagare Roberto. Ma tu lo vedi che anche l'amico tuo ti ha lasciato solo nella latrina, lui se n'è andato in televisione. Certo. Ma ha lasciato solo. No, sono qua ora, ma non importa, insomma. Purtroppo sono qua ancora, certo. Nella latrina, ha lasciato nella latrina. Roberto, però mi sembra che tu chiami a questa latrina però, eh? Come? Però tu chiami a questa latrina, l'ascolti questa latrina. No, ma perché? Perché purtroppo in Italia. Questo sta esalando l'ultimo respiro. Questo sta esalando l'ultimo respiro. Ti posso dire? Sto facendo un ominide. Perché sarei un ominide? Perché io sono un esperto di crani umani. Sei un esperto di crani umani. Questo è un altro, però. Quello era un altro, un mezzo nazista che sta dalle parti della Brianza. Non so dove. Perché quando ero ragazzo. Sì, che facevi? Il professore di scienze ci fece vedere il cranio di Voltaire quindicenne a scuola e ci fece entusiasmare. Col cranio di Voltaire. Invece nel mio cranio questo che cosa entusiasma ci dei crani. Il cranio di questo Voltaire chiama quindicenne. E si entusiasma dei crani. E nel mio cranio cosa ci sarebbe, rincoglionito? Dimmi, te sei normale. È di un lemurde. Vedi il cranio, per esempio, di Jackie, che è quello di una zucca. Di Halloween, per esempio. Ma questo veramente stai salando l'ultimo... di quella donna di Tagadà. Ma che c'entra il tuo adesso? Invece il cranio di un lemuride. Ma questo è pazzo. Mamma mia, questo ragazzi è completamente andato. Veramente questo qua le sono posso chiedere per chi ha votato lei sono nel preoccupato corso perché anni. Secondo me stai esalando l'ultimo respiro sul serio, questo qua all'ultimo soffio. Per carità, con tutto il rispetto Roberto, ma mi sa che vatti a fare una controllata, cioè chiama un medico. Vabbè tu dovresti essere eliminato, tu e la tua trasmissione. Sei rimasto solo nella latina, ma non ti accorgi. Da solo sei rimasto. Ma questo qua vedi che si ferma, vedi che si ferma improvvisamente. E puttanesca, chi te le insegna? Tua madre? No, mia madre, poveraccio. Beh, guarda, ti posso dire questo che è mia molto madre brutto. Posso dirti, madre disperata, posso per dirti cosa, Roberto disperata, che mia madre non c'entra assolutamente nulla. Posso dirti non c'entra nulla. Per cui non rompere i coglioni a mia madre, che poveraccia, non c'entra assolutamente niente. Detto questo, tu sei messo male perché hai visto. E vabbè, tu sei messo bene allora. Ma non lo so, meglio di te sono messo. Tu sei l'unico che è messo bene. Ma non ho detto questo, ho detto semplicemente. Ma vedi che tu deliri, solo tu te la prendi con tutto come tu se fossi il migliore. Ma non ho io detto... ti ho sentito criticare Gad Renner, che tu ti dovresti lavare la bocca di nominare il più grande giornalista. Tu non sei nessuno, tu quando filmi metti il segno di croce. Ti sei pagato. Sì. Esatto. Ma questo è lo stesso che diceva chi t'ha pagato. Ti ha pagato. Ma sei tu Roberto, mi sembra esatto, più sì. Il tempo passa però, Robè. Mi sembri meno sveglio adesso, no? Oh. Robè, sì. Questo se n'è andato, perché questo se n'è andato. No, sei tu. Questo se n'è andato. Che non riesci ad argomentare. Stai esalando l'ultimo respiro. Fatti chiama qualcuno, ma chiama qualcuno che ti dà il defibrillatore, qualcosa, un medico, sono preoccupato. Ma dillo, sei il coglione. Vedi, dillo, se vuoi così volete risolvere con i medici la gente, dovete mandare. Questo. Tu a te dovrebbe rubare un DSO. Ma lo vedi che sta male questo qua? Ma di qualcosa pure tu, Davide, di qualcosa. Facciamo il paragone. Io... la voce di qualche tempo fa, di un mese fa. Dico... lo vedi? La voce di adesso, Robè, parla un attimo, Robè, parla. Parla. Allora stavo dicendo che ma lo vedi che sembra morto, ma è preoccupante, ma fatti una dov'è? Chi c'è intorno a te? Ma lo vedi che è il circondito che ha piano. Quello Manesio se ti ha lasciato. Va, scusami, perché Robè. Quello vuole comparire per televisione, capito? Sì, ma d'accordo, vedi, scusi, ma lo vedi, non è che voglio comparire. Nessuno. No, scusi, però adesso ti credi un padre eterno. Scusami, Robè, però sì, chi è che ti circonda? C'è qualcuno che sta intorno a te, una brava persona che sta intorno a te, ci sarà pure, no? Una moglie, un figlio, una figlia, un cugino, un nipote. Vabbè, attorno a te non c'è nessuno che ti chi convince. C'è adesso? Perché sono preoccupato, cazzo, sentendo la differenza di voce. Ma io sono preoccupato per te. Ma no, ma cosa. Sono preoccupato, cazzo. Qualcuno intorno che ti fa con un defibrillatore, che ti aiuta un attimo, qualcuno c'è o non c'è, cazzo? Dillo, chi ti ha pagato? Ma lo vedi la differenza di voce? La senti, cazzo, la differenza? Che ti è successo in questo periodo? Che ti è successo? Ma ringraziare il padre eterno, niente. Ma hai avuto un problema? Hai avuto un cedimento improvviso? Che ti è successo? No, ma tu forse ce l'hai. Perché, perché tu peggiori sempre, capito? Vabbè. Perché tu deliri. Ciao, riguardati, chiama un medico, hai la voce più bassa, ti è successo... Mettiti uno scialle. Ma va. Dillo, chi ti ha pagato? Allora, caro David, non è finita ancora, non è finita, non c'è è ancora finita, più di un'ora, no. C'è ancora più di mamma un'ora mia. Qui, c'è più da di un'ora. Male, poi, allora, da vedo qua male. Una scritta gentleman, è uno che si vuole presentare con questo nome. Buonasera, con chi parlo? Buonasera, eccoci, sono Gentleman 73, un bull di Trento. Ah, dottor un Parenzo, bull? Dottor Parenzo, cos'è il bull? Ma cos'è il bull? Spiega a Parenzo che cos'è, spiega. È una cosa bullo. Molto semplice, io mi inserisco in una dinamica di coppia e sì. Mi prendo cura della compagna della persona che mi ospita. Scusi. Capito? Cioè, è scusi, molto chiaro, scusi, la cosa. Scusi, si inserisce. Forse non ho capito bene. Lei di professione? No, di professione fa una questa hobby, non è la sua hobby. Professione. Hobby. Sta dicendo un come hobby. Lei si inserisce in una dinamica di coppia, sì, e si scopa la senza moglie rovinarla. Senza rovinarla, con il consenso del marito, beh, certo. Ma assolutamente, certo. Sa va a San Dio. E per voi ovviamente. Questo è normale? Sì, per voi questo è normale. Ma, sì, diciamo, cosa facciamo stasera? C'è un bull. Ma, Dottor come Paretto, c'è un bullo? Guardiamo la televisione, guardiamo la 7, guardiamo In Onda, guardiamo Netflix se volete, guardiamo Amazon. Ma perché c'è un bullo? Dottor Parenzo, gli eschimesi hanno, sì, hanno la praticamente tradizione di offrire la moglie all'ospite. Quindi... Sì, ma io me ne frego degli eschimesi. Io sto a Roma, sto in Italia e non faccio pratiche eschimesi. Ditemi che sono strano, ma io non voglio bull che bulli o quello che è che suonano alla mia porta, mentre io la sera sono davanti alla televisione, magari a vedermi l'ottimo Formigli o chi volete voi, vabbè, in questo caso a fare la trasmissione bullo, in onda, uno uno mi scuona la porta e dice chi è, c'è il bull. Beh. Vengo qui a prendermi cura di sua moglie. No, se mi permetti, amico bull, di mia moglie mi prendo cura io, però tu fatti i cazzi tuoi. Però, come ti spiega gentleman, ci sono dei mariti che invece scelgono quest'altra strada, cioè sì, di ospitare dei bull. Non è normale. Lo vogliamo dire, gentleman, che è una cosa normale? Diglielo. È una delle ultime libertà che ci rimane in questo nuovo medioevo oscurantista. Grazie al cielo, prima che ci tolgano via anche questa cosa qua, ben venga le coppie così aperte. Devo dire una cosa, che in questo mondo ho trovato le coppie più innamorate, ovvero che avevano più fiducia, coppie dove io entravo come entri anche perché tuttora entro tuttora nella moglie di solito ma quello è chiaro, ma entri cioè non è una cosa che facevi nel passato, lo fai anche adesso. C'è un po' di Covid in giro, quindi si è un po' rallentato, chiaro, d'accordo. Chiaro. Allora, diciamo, cerchiamo di chiarire la situazione, caro David. Questo signore che ci chiama da Trento, che ha un suo nickname, che si chiama Gentleman 73, come cazzo è esattamente? Sì, giustissimo, Gentleman 73. Perché mi sei del 73, perché sei del 73. Sono del 73, benissimo. Sì. Praticamente si scopa o fa altre pratiche, eccetera, e le mogli all'interno di una coppia, con il consenso del marito, normale, giusto? Certo. Giusto, sbaglio, eccetera. Quanti incontri fai più o meno in media? Allora, nei periodi comunque d'oro, nei periodi d'oro pre-Covid, due o tre al mese si riuscivano a fare con coppie nuove. Con coppie nuove. Ecco. Poi naturalmente le coppie già rodate, tu sei, come dire, un frequentatore stabile, magari, no? Visto, mi è capitato che magari la lei di coppia, ovviamente tutto alla luce del sole, ovviamente con il consenso, venisse anche a trovarmi da sola, perché si era trovata bene. Capito Davide? Cioè, come se tua moglie a un certo punto esce da casa e ti dice: no, caro Davide, esco e vado a trovare Gentleman 73. Gentleman 73, perché no? Ma sarebbe una cosa normale, una cosa scontata. Cioè, vado a trovare una cosa bellissima, libertà veramente. Scusa, quali sono le tue caratteristiche, Gentleman? Scusami, io sono una persona. Devo dire normale, però sarai dotato, insomma abbastanza, siamo sui 19-20 diciamo. E la tua caratteristica principale qual è? Cioè, la tua caratteristica, allora, prima cosa, sono una persona con cui si può anche parlare, perché le coppie ti accolgono, tu parli, social, fai una discussione di che parlate, di Toninelli, delle autostrade, anche succede, dipende dalla coppia. Mi è capitato di incontrare, per esempio, una singola qualche mese fa, nel Bresciano. Sì, perché tu fai anche trasferte, no? Fai anche trasferte. Sì, perché il mio lavoro, faccio un lavoro comunque manageriale, quindi mi capita di girare. E quindi mi è capitato invece con una singola di una valle del Bresciano. Che mi ha detto: ma tu di dove sei? Mi fa: ma io sono di Trento, e questa qua aveva 24 anni fa. Sì. E dov'è Trento? Cioè, rendiamoci conto. Dov'è Trento? Questa è l'Italia. Detto, dov'è Trento? Dov'è Trento? Questa è l'Italia anche. Cioè. Questa, vedi, conosci l'Italia, l'Italia il bull. Però Davide, io non ti vorrei dare una delusione, non vorrei nemmeno scoprire le carte, ma una persona che noi conosciamo, una persona in comune, mi scrive: che chiusura mentale, David, un bull, che male te fa? Questa è un messaggio. Io voglio sapere chi è. Non lo posso dire. Non lo posso dire. Non mi fare una persona che conosciamo io e te in comune. Una persona che conosciamo io e te in comune. Visto che è l'ultimo anno, bisogna cominciare a fare nomi e cognomi. Dire tutto. No, tu non devi rivelare un cazzo. Perché se ti dico chi è, non hai capito. Io rivelerò. Salteranno grandi teste, rivelerò tutto. Non salta nessuna testa, amico mio. Al massimo saltano altre cose. Posso dirti una cosa? Comunque è sempre una grande esperienza conoscere coppie nuove, conoscere dinamiche nuove. Scusa, però del 73 mi dice questa persona, in realtà è un po' vintage, effettivamente hai solo 7 anni, cioè non è che sei un ragazzino, dice questa persona che mi scrive, al limite scelgo un ragazzino, 19-20, poi dice 19-20. Ma quindi è una donna questa che ti ha scritto? Una donna, sì certo, una donna. Una persona che conosciamo io e te. una persona che conosciamo, io e te, che abbiamo. Ma qua una... mi viene il dubbio adesso. No, non c'è nessun dubbio. Una persona che conosciamo. Qua io... mi spavento. Ma io non posso qua dire niente. Io mi spavento. No, qua non io ti devi spaventare. Ma io, siccome è l'ultimo anno, faccio i nomi di ma tutto. Di chi? Di tutto. Ma di chi? Di tu, ma io posso chiedo mettere il sequestro. Dalla mia l'esperienza, non posso mettere. Ma quale esperienza, giovanità? Signor Bull? Vada, non rompa i coglioni. Non faccia passare per normale ciò che normale non è, signor Bull. Caro Bull. Scusami, Bulldog. Dottor Parenzo, io non sto facendo passare per normale, sto raccontando comunque una pagina di cultura che non si può negare. Assolutamente, scusi, Parenzo. Signor Bull, lei che cosa fa in questi incontri? Cioè, come li affronta questi incontri? Cioè, ma, allora, sicuramente mi presento sempre con una bottiglia di buone bollicine. Quali sono le pratiche più incredibili, cioè le richieste più incredibili che ha avuto, signor Gentile? Allora, bene o male mi sono sempre inserito il più delle volte in una dinamica di coppia, quindi andavo a casa oppure li aspettavo. Mi è capitato più un paio di volte dove i mariti mi hanno contattato perché andassi a trovare le loro compagne venisse tutto questo filmato e poi mandato a lui che filmato. Si citava magari durante il lavoro. Devo dire la verità, pensavo che fosse un po' un trappolone, perché quando invece uno era tutto vero. Sì, era vero. Cioè, però tu ti sei fatto filmare, ti sei fatto filmare, hai mandato poi senza la faccia, ovviamente. Qui siamo alla follia. Ma no, ma senza la faccia. Qui siamo alla follia. Cioè, il marito è fuori, si fa trovare la moglie dal bull e si fa mandare il filmato. Beh, normale. Ma qui siamo al poi non stupitevi se i sovranisti. Sì, ma poi non stupitevi se il paese non vuole il MES. Tutto c'entra. Non stupitevi se poi c'è qualcuno che dice che non volete il MES. Fermi tutti un attimo. La cosa importante che ti volevo chiedere è che comunque in 2 anni di Zanzara va bene la questione figa pelosa o petto di pollo, va bene i piedi o non piedi, però io voglio capire, tu devi chiedere un'intervistata importante per la scienza, le donne lo preferiscono il cazzo peloso o no? Perché io ad esempio ce l'ho glabro e la mia ragazza apprezza, cioè almeno non ci sono problemi. Allora, benissimo, io non so, gentleman, se è glabro o peloso, signor gentleman, il bull qua. Cazzo in questo... depilato. Depilato, lo vedi, depilato. Allora, è in collegamento con noi il signor Maurizio Ruggero dell'associazione, è la solita associazione straordinaria. Sacrum Imperium, sì. Signor Maurizio Ruggero, che volevo da lui un giudizio... prima di affrontare il tema del morale, porno, soprattutto giudizio morale su questo morale, su questo signore qui che frequenta le coppie e scopa le mogli, sostanzialmente. Qual è il tuo giudizio sul signor gentleman? Beh, intanto continuo a vedere che i soliti malvissuti, non cambierete mai, meno male che chiudete quest'anno e così almeno ci evitiamo un altro anno di orrori. Beh, a parte questo, comunque come lo giudichi questo qua? Una persona che finirà all'inferno probabilmente, no, questo signore qua? Beh, allora all'inferno, diciamo, per andarci sta facendo di tutto. Bisogna vedere se persevera sino alla fine, perché si converte prima al ma non credo, non credo che si converta. Ma tutto è possibile, Cruciani. Cioè, lo inviteresti a dire qualche preghiera, a fare qualche preghiera, immagino. Beh, se lui cominciasse a pregare e a cambiare vita... Ma per te scopare una moglie, la moglie all'interno di una coppia è veramente un peccato così grave? Ma forse voi rammenterete il caso famoso del Marchese Casati. Marchese Casati faceva esattamente queste porcherie che prima ma non sono porcherie, ma non sono porcherie. Non sono sozzure porcherie, ma sono normalità. Spogliate. Vabbè, allora... questo assolutamente non sono d'accordo. Allora, allora dicevo, il Marchese Casati negli anni 70 si dilettava a vedere sua moglie che lo tradiva unendosi con il cameriere. Vabbè, allora? È finita con l'omicidio della signora. Ma non è che finisce in omicidio, non è normale. Cioè, io dico, io invoco persino i lombrichi, il giudizio dei lombrichi. Cioè, non è normale che il marito sia contento che la moglie si accoppi con un altro, ma da dove venite fuori? Da quale caverna progressista? Da quale antro animalesco? Scusami, Ruggero, un tuo giudizio, fermo un attimo, Ruggero, il porno, allora, che cosa faresti tu col porno? C'è una grande discussione, il porno va limitato, eliminato, va la censura, certo, ma è una discussione, ovviamente non è che ci si occupa solo di autostrade, ci si occupa anche di problemi... accademico, certo. Ma, cioè, ma allora, che cosa faresti? Lo chiuderesti tu il porno? Io farei quello che ha sempre fatto la santa società tradizionale, cioè la censura, la santa censura. Ma come la censura? Di fronte a spettacoli osceni, immorali. Cioè, il porno va chiuso, il porno va chiuso. Ma non solo il porno, bisogna sorvegliare anche i costumi femminili specialmente femminili, ma anche maschili, diciamo le leggi suntuarie di tutte le società tradizionali. Non ho capito, lasciamo per il porno, che secondo alcuni cioè, ma cosa fai? Lo chiuderesti? Non deve esistere il porno. Fermo. Tanta censura che lo colpisce. La censura, fermo che ci ha chiamato Max Felicitas. Che cosa vuoi dire a Ruggero? Felicitas, tu sai che sei uno dei massimi esponenti della pornografia italiana. Dimmi. Ciao ragazzi. Volevo dire una cosa molto importante. Mancava lui sto cazzo. Il fatto è che la religione ha creato i genocidi peggiori della storia. Bravissimo. Il porno bravissimo. Non ha mai ammazzato nessuno. Oh, un applauso. Quindi viva il porno, le seghe e viva la masturbazione. Esatto, capito Ruggero? No, hai capito Cruciani? Allora, il porno non ha mai ammazzato nessuno, solo Santa Maria Goretti. Infatti Serenelli, l'omicidio di Santa Maria Goretti, aveva la stanza tappezzata di immagini porno. Ma che c'entra? Aspetta. La bestia del porno, dove l'avete beccato? Felicitas. Se uno si fa chiamare Felicitas, fa ridere uno con un gelatino. Ma che cazzo dici? Non permetterti, ridicolo, bigotto. Non solo bigotto. Lo sai Felicitas che non si è mai fatto una sega Ruggero in vita sua? Dice che non si è mai masturbato. E volevo dire un'altra cosa. Aspetta Ruggero, fermo un attimo. Un'altra cosa del porno. Dimmi. La funzione del porno è una funzione sociale, perché la gente masturbandosi è tranquilla e quindi non commette crimini, non commette cose. E da cosa si vede che è tranquilla? Sì. Che uno che non si masturba e guarda i porno è come questo signore qua, un represso del cazzo. Represso! Ruggero. Mettiti a posto, animale, dai, su! Ma che vuol dire mettiti a posto? Questo qua è un porno attore che guadagna un po' di soldi, è uno dei principali attori sul web. Qual è il problema? Per scoppiarsi, già adesso è scoppiato il muro, per scoppiarsi attraverso i peccati e guadagnarsi l'inferno e l'aldilà. Una meraviglia, cioè complimenti. Ma questo veramente un cazzo. Ma non gliene frega un cazzo. Applausi. Felicita, risponde a Ruggero che non si è mai fatto una serie e dice che non c'è. Ma non si può cambiare Felicita una. Io sai allora, uno, non cambiamo niente qua. Fermo. Allora, ovviamente quello che consiglio io è di andare questo signore non in chiesa, ma da un buono psicologo che magari lo aiuta a capire che il sesso è una cosa fondamentale, un bisogno primario e è la natura delle cose. Sì, mentre la religione è una cosa inventata. Quindi che si svegli questo signore. Ci rivediamo il giorno del giudizio. Il giorno del giudizio, io metto una parte, arrivi la Felicitas e ci godiamo il suo giudizio. Il giorno del giudizio. Ma se uno non ci crede. Una sega. Ma se uno non ci crede, scusa un attimo. Se uno non ci crede, Ruggero, sarà pure libero di non credere, no? Di vivere questa vita terrena come cazzo vuole. Quello fa l'attore. Sarà libero dall'inferno. Ma certo, più uno può andare all'inferno. Però. Ma tu, nella tua società ideale, il porno attore come finisce? A rogo? Dove finisce? C'è uno come Felicitas? Ma il porno attore non esiste, perché la Santa Inquisizione, meglio ancora, andrebbero in galera. La censura lo sanzionava, c'è anche un po' di galera, non li fa mica male. Allora, Felicità, se questo signore deve andare a leggere i crimini che ha fatto la Chiesa, questo deve leggere, il porno non ha mai ucciso nessuno, giusto. Tutti gli schifi che si sanno ogni giorno sulla Chiesa. Giusto. Soldi che ruba la Chiesa. Ruggero, questo non qua viene a fare la morale a noi. Sistema la tua vita, dai, che è la vita da maiale. Sistema la tua vita, su, dai. Anziché invocare i crimini della Chiesa. Perché giusto. I crimini che fate, tu che sei, fate sei voi, a favore di una Chiesa che ha fatto una marea di crimini. Addirittura la Chiesa, quella io sono favorevole a una Chiesa che chiamava le anime e quindi sanzionava giustamente il male. Voi invece siete dalla parte del male. Voi mandate le anime all'inferno. Viva voi i bulli! Sei tu il male. La gente come te rovina il mondo, giusto. La figa è la cosa più bella della vita. Scopa Ruggero, scopa la figa, la figa è straordinaria. Masturbati. Mamma mia, che conversazione. Ruggero, mamma mia, ragazzi, ma siamo dovete reclutare questi animali? È un animale, indubbiamente. Vi trovate prima, non so, e concertate di provare il morso di turno, cosa fate? Ma vive la sua vita tranquillamente. Vive la sua vita e poi ci rivediamo alla fine. Come diceva un politico. Ma ci rivediamo alla fine dove? Se conoscevi anche tu, i conti si fanno alla fine. Ma vai a cagare, ciao. La Zanzara. Quello lì che ha mandato quel messaggio lì, l'automobilista lì, è uno di quelli lì che quando lo superi poi si mette ad accelerarsi perché si caga addosso, quel coglione lì, coglione. Scusate, dite al coglionazzo con la macchina che si mette a 60 all'ora, che è il minimo autorizzato in autostrada, che fa benissimo a farlo, ma purtroppo il suo cervello limitato non capisce che un mezzo pesante ha un limite di velocità, che è quello segnato nei tabelloni dietro al rimorchio, testa di cazzo. Se capisci che io ho un limite a 80 all'ora, non posso andare a 120 come te, testa di cazzo, con la macchina e sorpassare in 3 secondi un'altra testa di cazzo come te. Mi ci vuole il mio tempo, perché il collega che sto sorpassando sta viaggiando anche lui limitato a 80 all'ora come me. Con la tolleranza e tutto arriviamo a 89-90 e giochiamo sempre sul filo del 90-91-89 tutti quanti, perché è il massimo consentito. Quindi cara la mia testa di cazzo coglionazza, io spero mai di un beccatti ma a 60 all'ora davanti a me, perché se ti becca a 60 all'ora una strombazza fatta bene e te la fo, testa di cazzo. E continua questo scontro epocale, caro David, questo scontro epocale camionisti, eh sì. E gente come te che magari rallenta per far rodere il culo a queste persone, per dar fastidio, per rallentare il lavoro. Ma dipende, sì, dipende, sì, dipende, sì. Dipende, sì, perché dipende, non sopporti dipende. L'idea magari due tir che stanno accanto, due camion uno accanto all'altro, certo, vuoi passare certo, per forza, certo, vuoi la certo, strada libera, non sopporti questi camion, no, no, no, no, non è di che lavoratori, non li in realtà no, non sopporti i lavoratori, questo è il punto eccola, fondamentale. Eccola, la realtà che è che non sopporti no, i lavoratori, questo è il punto. In poi, alcun modo, in alcun modo, in alcun modo, non sopporto l'arroganza di alcuni di loro, ma dei, in generale non dei camionisti, degli automobilisti in generale, l'arroganza. Allora, Paolino Becchi, lo stato di emergenza, senza l'emergenza. Paolino Becchi, l'emergenza sanitaria per lui, il questo grande è lo stato di emergenza Paolino sanitaria. Becchi, Paolino Becchi. Uno stato di emergenza senza emergenza, senza che ci sia in realtà un'emergenza. Non c'è il virus, ma c'è l'emergenza. È l'emergenza che costruisce il virus. È l'emergenza che si inventa un virus che in realtà non c'è quasi più. Comunque sai, io dopo l'intervento di Sgarbi, dopo queste cose qui, mi sono anche rotto il cazzo di parlare di questa cosa qua dell'emergenza. Non c'è nessuna svolta autoritaria, ve lo posso dire. Nonostante la super cazzola di Fusaro, non c'è alcuna svolta autoritaria. Anche perché siamo appunto qui a parlarne, facciamo parlare pure quelli che dicono e che parlano di svolta autoritaria. Per cui se c'è la svolta autoritaria, uno non dovrebbe essere autorizzato a parlare di svolta autoritaria. Cioè, per cui è quello il punto. Vai, vai con Fusaro, la super cazzola. Lockdown, distanziamento sociale, divieto di assembramento sono senz'altro misure sanitarie, ma sono anche misure politiche in senso autoritario. La mia tesi è che siamo nel bel mezzo di una riplasmazione autoritaria dei rapporti di forza. No, cominciavano a esserci dissensi e dissesti nella globalizzazione, sovranismi, populismi e ritorno di fiamma, di passioni oppositive. Con questo si è data una svolta autoritaria al rapporto di forza. Ma qual è? Ma questa è una supercazzola, la solita supercazzola fusariana. Ormai Fusaro lo sentite solo su questa radio? No, soltanto a quest'ora lo sentite ormai. No, non è solo vero, su non questo è vero. Non dire cazzate, dai, dovresti invitarlo anche una volta, sarebbe spettacolare. No. Giorgio no, dalla no, provincia di Como, vai Giorgio, vai. Guarda, piuttosto invito la Nappi. Dai, Giorgio dalla provincia di Como. Piuttosto. Paola da Salerno, vai, dimmi. Ciao. Allora, per quanto riguarda Parenzo, a me piace, però ultimamente mi sta proprio sulle scatole, perché è un capitalista. Lui, ma che vuol dire un capitalista? Scusa, tutti siamo a favore del capitalismo qua, amica mia. No, perché tu ti fingi da proletariato. Ti metti, ma che vuol dire il capitalismo? Ma non è che il capitalismo. Ma che vuol dire il capitalismo? Sì, perché ma che vuol dire il capitalismo? Siamo tutti quanti figli del capitalismo. Ma che vuoi abrogare il capitalismo? Abbattere il capitalismo? i cazzi sono i nostri, sai che io sono precaria, sai che sono precaria da 5 anni e per una volta che ho preso un cazzo di lavoro con sto cazzo di lockdown. Io ma che c'entra? Ma di peste, non di carestia, ok? Io ma che c'entra col capitalismo? Ma che c'hai in testa? Ma cosa hai in testa? Le pigne hai in testa? Le pigne hai in testa? Il capitalismo, non il capitalismo. Tu qui simpatizzi tanto con lo sceriffo. Senti Paola, Paola, cerca di farti sentire bene al telefono, che non si sente bene. Fatti sentire bene, metti bene il telefono come al solito. Mi senti adesso? Sì, ti sento. Lo conosci? Ma che c'entra? Quello è il governatore del mondo. Ma governatore di cosa? Lui qua ci ha governato, ci ha governato bene. Adesso è cambiato. Vabbè, pensa al capitalismo, pensa a Marx, pensa a Marx. Abbiamo ripreso con Giorgio, fermo qua, Giorgio. Sì, sono qua. Allora, è da stamattina che piango io. Per l'ennesima volta ad Avellino hanno stuprato una bambina di 5 anni. Beh, questa è una cosa negativa, che c'entra? Avellino può succedere. Ma che cazzo ti devo dire? Ma può succedere anche a Torino, può succedere anche a Torino, a Milano. In Italia ci sono le due, ci sono le tendine rom e le tendine campane, che poi ci sono le sottotendine. Scusami Giorgio, tu stai dicendo, aspetta, tu stai dicendo che c'è una specialità dello stupro in Campania, ma di che parli? Ma basta che apri il mattino di Napoli, 5 marzo. Ma cosa 20, c'entra? Ma cosa? 10 anni abusata dalle e va bene, che c'entra? Ma quello può succedere, può succedere in Svezia, come in Germania, come in Piemonte, come in culo, ma vattene a fanculo. Ma questo è pazzo. Parenzo, rispondi un attimo se si sente bene, no, perché no, non si sente un cazzo. Io si sente male, ma perché è una persona disturbata. Siccome una persona disturbata non è solo, non è un problema di audio. Cruciani dice che si sente male, ma si sente male perché il tuo cervello è andato in pappa. Questo è il punto, non è una questione tecnica di audio, di come si sente, e per fortuna si sente male, perché già deliri così, figuriamoci se si sentisse bene, auguriamoci che si senta sempre male le stronzate che dici. Come a Napoli, stuprata e gettata dal balcone. Scusami Giorgio, ti metti bene col telefono per favore, togli l'auricolare o il viva voce o qualcosa. Non ho auricolare né niente, ho il telefono di fianco, alzo la voce perché mi incazzo, perché piango da stamattina, perché il signor Parenzo, essendo un israeliano, non piange mai, ammazzano la gente a Roma. Ma sono un italiano, cosa dici? Spostato di uno spostato, solo italiano, spostato di uno spostato. Questo è pazzo. E che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Gli stupri avvengono in tutto il mondo, a prescindere dal nord e dal sud. Non è vero. Ma questo è pazzo. Ma questo è pazzo. E che c'entra? Certo, è successo ad Avellino. Sarà l'apertura del Mattino di Napoli. Ma che sei rincoglionito, sei? Ma che cazzo ti devo dire? Ma apri il giornale del mattino del 1 gennaio. Stuprati i bambini, gettati dal balcone, incurati. E Cristo, sono con me. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra Napoli o Avellino? Ma cosa c'entra? Avvicina bene la bocca. Avvicina, perché le stronzate le voglio sentire bene. Avvicina bene il telefono. Allora, sono collusi anche i vicini. Ma cosa c'entra? Ma i vicini possono. Questo è pazzo totale. Possono essere, scusami, uno stupro può avvenire ovunque, in Liguria, in Piemonte. Apri il giornale della Liguria. Ma cosa c'entra? Ma Parenzo, di qualcosa anche tu, ti prego, io non ce la faccio. Ma non dire cazzate. Parenzo, di qualcosa. Ma di qualcosa anche tu. Aspetta un attimo. Sì, pronto? Che fai? Sì, sono Parenzo, la Zanzara di 24. Sì, abbiamo un problema, come al solito, con un signore. Può mandare immediatamente un'ambulanza, per piacere? Grazie. Sì, sì, è il solito. Dove? Convenzione Radio 24, la Zanzara. Sì, Cantù, è un matto. A Cantù. Ah, state già andando, perfetto. Sì, perché il personaggio è particolarmente siccome tutti quelli che chiamano. Va bene, la ringrazio. Stanno arrivando. Grazie, arrivederci. Ecco, abbiamo telefonato. Aspetta che ma che c'entra la cultura? Scusi, la situazione. Stai dicendo che al sud sì, la situazione si sta aggravando perché il paziente continua a delirare. Potete fare presto, per piacere? Sì, mandate 2 unità, è meglio. Grazie, arrivederci. Scusami Giorgio, stai dicendo che al sud c'è una specialità dello stupro, cioè stuprano di più, ma sei pazzo totale. Un culo, che te lo ricordi. Ma che dici? Forse voglio mandarle un'altra ancora. Che stava dicendo? Salve, sì, sempre Parenzo. Che stai dicendo? Perché la situazione si aggrava di minuto in minuto. Non è Parenzo. Lei è una caccola nello stadio, non è Parenzo. Sì. Vabbè, ciao, mandatele ciao. Tre unità subito, grazie. Gianluca, provincia di Ancona, avanti tutta. Gianluca. Gianluca. Eccolo. Dimmi. Tolgete la voce, però dopo rompi il cazzo. Un attimo, ecco. Dai, dimmi. Forza. Dimmi, dimmi, dimmi, Gianluca, dimmi, che volevi dire? Io avevo lasciato un messaggio per il professorone, la Peppago, che è lo scienziato, il dottorato in economia e commercio. Che vuoi dire a Paco? Che vuoi dire a Paco? Ma è testa di minchia, fino a 20 anni fa stava a grattare il culo alle scimmie, mo viene qua, che sa che cazzo vuole fare. Ma lui, che c'entra? Lui che... dovrebbe... Ma come ma sa? Che... Ma quello è cresciuto in Italia, imbecille, che grattava il culo alle scimmie? Ma è cresciuto, c'è venuto qua in Italia, che è cresciuto, c'è venuto in Italia. Ma è cresciuto in Italia! Ma come si vede? Perché non c'è la cittadinanza italiana? Ma perché non l'ha voluta prendere? Cosa c'è? Attaccalo per quello che dice, non perché dove stava prima. E dopo si lamenta, l'Italia italiana fa schifo. Ma quello sai dove cazzo deve stare, quello? Dove deve stare? Andare a vendere i CD e gli accendini. Ma perché? Ma fa l'operaio in una fabbrica, imbecille di un imbecille. Fa l'operaio in una fabbrica. Non merita neanche quello. Ma perché? Ma fa il suo lavoro, criticalo per quello che dice. Ma come si permette? Come si permette? Come si permette? Sputa nel piatto dove mangia. Ma fare il culo. Smetti di usare quell'espressione sulle scimmie, vergognati. E dopo si lamenta pure dell'Italia, razzisti, fascisti, pezzi di merda, vaffanculo, quello deve andare a vendere i CD. Ma perché quello fa l'operaio? Tu che mestiere fai? Quello fa l'operaio, che mestiere? Che mestiere fai? Quello è un demente. Che mestiere fai tu? Che mestiere fai? Io lavoro con un'azienda privata che tratta rifiuti. Tratta rifiuti, tutto vago. Tutto vago. Che ti venga a fare? Non è cognome. Fermo là, fermo, vattene a fanculo, ciao. La zanzara. Cruciani, lascia perdere di trovare il fidanzato a sta rompicoglioni della Martani. Sta mangia erba, non neanche il Dalai Lama non la sopporterebbe. Neanche Gandhi, cazzo. Neanche... Arriva sconti poste nelle Anystation. Fai rifornimento e paga con le carte BancoPosta e PostePay. Ricevi sconti in cashback grazie al programma Sconti Poste. Fai il pieno di sconti con Anystation e Poste Italiane. Scopri di più su scontiposte.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per limitazioni e dettagli sull'iniziativa Sconti Poste e sui distributori Eni aderenti, vai su scontiposte.it. Per le condizioni contrattuali ed economiche delle carte di pagamento PostePay e BancoPosta, consulta i relativi fogli informativi negli uffici postali e su poste.it, sezione trasparenza. La zanzara. Anche se io faccio tutto una fascio, perché dal MES è arrivato già dal vecchio sistema, se per essere adesso al MES. Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono, allora fatti dare, dai. Oh, oh. Quante firme avete già raggiunto? Guarda, di preciso non lo so, però parecchie, perché non siamo stati a contarle perché c'era tanta gente e le abbiamo messe via. No, ma ho firmato lì, ma mi hanno fatto firmare lì, però mi hanno fatto mettere il nome... Che c'è sopra lì? Che ma ha messo una firma, sa per che cosa l'ha messa? Io ho messo la mia firma, nome e cognome, però loro non mi hanno mica detto che cosa bisogna votare, cosa. Per cosa avete firmato? Per il MES. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a MES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Yes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Se mi riprendo, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Perché cosa sta MES? Eh? Perché cosa sta MES? Eh? Un acronimo il MES. Sì, lo so, era per... Per la protesta di tutto. Ciao belli, sono Federica da Trieste e mi scaccolo il naso e mangio le caccole per stimolare il mio sistema immunitario. I love my radio. Allora David, capiamoci bene. Se la zanzara dovesse chiudere, noi porteremo tutti i mostri che ha generato questa disgraziata trasmissione nella tua vita quotidiana. Cioè tu andrai a fare la spesa? Troverai Donato da Varese al reparto macelleria. Andrai in palestra, troverai il brasiliano. Andrai dal medico, troverai Susanna la puttana della salaria. Ti porteremo Mauro da Mantova in sala parto, David. Questo pensa te. Quindi pensaci. Una persecuzione. Questo, devo dire la verità, ci ho pensato anche io a mandarti qualcuno in sala parto. In una sala parto. Vera. Una vera persecuzione, una vera persecuzione. Allora, l'ingegner Negri colpisce ancora. Dopo aver detto che Conte è uguale a Hitler con la dittatura, dice che ci saranno 1 milione di disoccupati, bimbi affamati. Adesso, per carità, magari ci sarà una crisi, eccetera. Però se... Dal Ministero dell'Interno si prevedono disordini sociali, per fame, milioni di disoccupati, aziende che chiuderanno. Beh, questo forse sì. Persone che non avranno più i soldi per curarsi né per mangiare, bimbi affamati, perché hanno voluto chiudere tutto senza una proporzionalità, per qualcosa che non c'era, per qualcosa che non motivava tali chiusure. Spareranno nella nuca all'Italia. Loro continueranno, continueranno a colpire un'Italia ormai stordita e a terra, continueranno a bastonarla fino a spararle dietro la nuca, con un nuovo lockdown, con una nuova limitazione della libertà. Mamma mia, come mi fa godere a me l'ingegner Negri, mi fa godere da morire, mi fa godere da impazzire. Non lo mi fa godere. Non ti rendi, no, perché non su alcune cose ha anche ragione. No, non è vero, poi esagera. Su alcune esagera. Cose ha anche ragione. Certo, su assolutamente, cose anche sì, sì. Su alcune sì, come cose dici, come dici tu, gli orologi rotti, no? Tu hai rovinato questo. Tu andresti, no, ma non è che hai solo rovinato questo paese. Tu andresti fermato, perché sai, ogni giorno che vai in onda, che andiamo in onda, mi ci metto purtroppo anch'io, perché sono purtroppo complice, dovrei essere arrestato anch'io, te lo dico. Cioè, sono arrivato anche a questo. Ogni minuto che noi andiamo in onda è un danno da 1 milione di euro fatto alla Confindustria. Fai il conto, ogni minuto in onda è un danno che facciamo. Purtroppo ci sono dentro anch'io questo schifo. Scusa, i complici, i collaborazionisti. Dovete arrestarmi, dovete arrestare anche me. Fermateci, per collaborazionismo, fuori controllo. Per collaborazionismo. Sì, purtroppo sì, perché non so più come fare, non so più come fermarti. E ormai è impazzito tutto, Aspetta, c'è più Negri. Possibilità. Negri, lo voglio. I missili di Conte sono centrati, sono orientati verso il nostro paese. Aspetta che lo chiamo, mi fa impazzire. Stanno partendo i missili di Conte. Si chiamano proroga all'emergenza, mascherine, facciamo distanziamento, deportazioni, virus, contagio, comitato tecnico scientifico. Dimmi se non è bravo. Sono missili puntati sul nostro paese, stanno per partire, non ci salveremo. Proviamo che mi fa godere. Occupato il maledetto, è occupato. Gianluca da Pavia, vai Gianluca. Dimmi Gianluca, ciao, dimmi. Ciao a tutti. Allora, io volevo parlare con te, Cruciani, con il quale sono quasi sempre d'accordo, ma su questa storia degli animali mi fa incazzare in un modo. Perché allucinante. Che ho detto di strano? Spiegami, cosa ho detto? Cosa ho detto? Affettività. Ma uno potrà, non credo, uno è costretto ad amare gli animali per forza, è costretto a vivere con gli animali, è costretto ad avere gli animali. Allora io li rispetto, non li maltratto, non faccio nulla, li posso ignorare. E c'è, no, non ho mai avuto un cane. Sti cazzi che sono, devo essere considerato un paria o rincoglionito o non so che perché non ho mai avuto un cane. Cosa vuol dire? Tu hai mai avuto un cane? Non ho mai avuto un cane, allora? E allora che cazzo vuoi capire di queste ma cose? Ma chi te l'ha detto? Ma cosa si... Ma su che cosa? Spiegami. Ma qual è l'argomento? Spiegami qual è l'argomento. Beh, l'argomento però è che io mi associo a quello che è stato detto l'altro giorno, che chi tocca il mio cane muore. Se qualcuno ammazza il mio cane ci vuole l'esercito, perché chi ammazza il mio cane, compreso il carabiniere, senza motivo. No, il poliziotto, questo lo dici tu senza motivo. Prima della fine del processo e fine della sentenza, prima della sentenza, non puoi dire un cazzo. Se indagato un motivo ci sarà, se indagato un motivo. Ah, come se indagato un motivo ci sarà. Vabbè, adesso questo deve avere un deve essere preparato anche in queste situazioni. Non si può sparare. Tu pensa se cominciassimo a sparare anche alle persone così. Perché a un animale puoi sparare? Ma cosa c'entra? Ma lì, lì i fatti sono abbastanza chiari. Il poliziotto non so se abbia esagerato, ma dovrebbe essere eliminata questa possibilità. No. Se ci fossi Scusa, il cane è morto, certo. E come saresti intervenuto? Io avrei saputo come intervenire. Sentiamo. Ci sono mille modi come intervenire su un cane e come fermarlo senza doverlo sparare. Quindi è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Tu dunque ti senti in grado di intervenire? Saresti in grado di intervenire al posto del poliziotto? Cioè, ti senti in grado di intervenire al posto del poliziotto? È arrivato il professore. E chi se ne frega se è Rottweiler? Rottweiler è il mio, è un angelo. Non è ma un per me i Rottweiler non andrebbero manco venduti. Pensa te, non andrebbero. Ma perché mai? Ma perché mai? A un essere qualunque ti dimostra il fatto che tu non hai mai avuto un animale. Non puoi capire un cazzo su questa cosa. Vabbè, hai capito tu. Io sto giudicando il fatto che un poliziotto. I Rottweiler magari sì. Ma perché devi dire i cani potenzialmente pericolosi, a mio parere, vanno bannati, come succede in molti paesi. Ci sono padroni potenzialmente pericolosi. Sì, ancora con sta cazzata, ancora con sta stronzata, sono non è vero. Ma figuriamoci. Senti, amico mio, il punto è questo. Io ti sfido. Ma ti sfido a che? A duello? A che cosa? Ma che duello, stupido? Ma che duello? Era una battuta. Io ti posso dimostrare che quello che dici tu è una grandissima cazzata. Ma a proposito di che? Non ho capito qual è l'oggetto. Sono più aggressivi di un Rottweiler. Sì, chihuahua più aggressivi. Ma non rompere i coglioni. Non dire stronzate. Ma che chihuahua? Ma non dire stupidaggini, devi parlare di politica, sulla quale mi trovi sempre d'accordo. Ma di animali. Fermo là, ingegnere. Sì. Oh, grandissimo ingegnere, come stai? Mi dica. Come stai, ingegnere? Stai zitto, Parenzo. Stai zitto. Stiamo lottando per eliminare per sempre le mascherine. Dal primo agosto niente mascherina da nessuna parte. Beh, non è che lo decide lei, però, ingegnere, non è che lo decide lei, dal primo agosto niente mascherina. No, ma noi siamo il popolo, ma stiamo scherzando. Popolo, ma questo bellissimo cazzarola. Scusami, ma noi dobbiamo stare sottomessi a un branco di mentecatti come quelli attuali. Ma cosa dice sto pazzo? Cioè, noi siamo il popolo, siamo quelli che praticamente decidono perché noi siamo a dover ogni giorno combattere con questa gente con la mascherina. Scusami un attimo, ingegnere, scusami. Lo dice Clementi, ma sa cosa ha detto Clementi? Sì, se sì, viene rinnovata l'emergenza, lui va in piazza. Negri, scusami un attimo, hai paragonato Conte a Hitler però l'altro giorno. Conte, ma stiamo scherzando, ma... Praticamente lei sa che Hitler, il Parlamento tedesco, Hitler ha chiesto l'emergenza. Ma non è la stessa cosa. Conte è peggio. Ma come fai a dire che è peggio di Hitler? Perché praticamente lui vuol mettere in atto la cessazione della libertà con un decreto. Stai dicendo che è peggio di Hitler? Un atto amministrativo. Vuol finire la libertà con un atto amministrativo. Ma non è vero, la libertà non c'è. Assolutamente. Il DPCM non c'entra niente. Ma lascia perdere il DPCM. Il DPCM non può. Ma siamo talmente liberi. Il DPCM non può essere mai più utilizzato. Allora lui vuole poteri speciali. Ma Hitler che c'entra? Vuole i poteri speciali. Ma Hitler che c'entra? Non possiamo concedere. Noi siamo il popolo. Tu sei il delirio. Ma tu sei un pulcino. Tu c'hai il cervello. Ma quale pulcino? Guarda, ma fanculo. Basta. Delirio. Sei un delirio. Però a casa tua hanno cambiato le chiavi. Ti hanno cambiato le chiavi di casa perché sei un rompicoglioni. Allora, fermo un attimo. Allora, io per me. Dobbiamo considerare questo. Cosa? Dobbiamo considerare che in Italia noi non vogliamo più i raccomandati come quello lì che sta. Ma come ti permetti? Ma neanche l'elemosina stareste a chiedere. Come ti permetti, delirio? Sei mediocri. Ma noi chi?

Ciao, ogni volta che tornavi a casa, ogni volta che tornavi a casa, basta mascherine, distanziamento sociale, vanno aboliti. Ma tu il distanziamento sociale lo avrai comunque, perché nessuno vuole stare con te. Dal punto pazzo. Di vista economico il paese sarà distrutto. Questa. Allora, ciao ingegnere, ti saluto. Dopo, ti saluto ingegnere. Ciao. Comunque ragazzi, si può dire di tutto all'ingegner Negri, ma che non, che non sia, non che non sia un grande oratore, è un grande, è un grande oratore, tribuno, ma, è un grande tribuno. Ma cosa vuol dire? Ma è un folgorato. Beh, tu però con sai, questa sei trasmissione, al netto, stai, no, no, al netto di niente, tu con questa trasmissione fai perdere mezzo punto di PIL al giorno al paese. Tu fai, distruggi ricchezza. Io veramente, io, e mi dispiace, io sono complice di questa cosa da anni ormai, non so come uscirne. E io chiedo scusa agli amici imprenditori, io provo a raddrizzare la baracca, ma alzo le mani al cielo, non ce la faccio, non riesco, no, non si può più raddrizzare questa barca, ormai è, ha preso questa strada qui, chiedo aiuto a voi. Sergio, da, queste, da questo canale. Appunto, da questo canale. Sergio, esatto, da Torino, esatto. Vai, Sergio, dimmi. Che disastro. Dimmi Sergio, dimmi, dimmi. Ma io volevo intervenire, allora, in primis voglio dire, voglio dare la mia stima al signor Parenzo perché è strasimpatico. Ma al di là di questo non ce ne frega un cazzo, poi? Bravissimo. Beh, bravissimo. Però dico, ho detto che non me ne frega un cazzo. Ce ne frega un cazzo, bravissimo. Ma un cazzo, sì, una manica di spostati in questa trasmissione. Bravissimo. Mi hai appena detto, Parenzo, simpatico, e quell'altro mi attacca e tu dici bravissimo. Siete una manica di spostati voi che telefonate, io ve lo dico. Dimmi Sergio, dimmi. È spostato essere gentili, Parenzo? Non lo so. Dimmi, no, Sergio, ma quell'altro mi attacca. Tu mi hai detto. Ma sì, vabbè, amen, dai. Dice bravissimo. Vabbè, dai, allora, allora. Senti un attimo, Parenzo, ma la pianti di difendere sempre e comunque in maniera inossidabile gli extracomunitari? Giusto. Io ti dico, io sono brasiliano. È brasiliano, Sergio. E tu, sì, sono brasiliano. Come mai sei brasiliano? Vabbè, come mai? Nel senso che sei brasiliano, punto e basta. Sono nato in Brasile. Che ne so, mo, stra, i brasiliani, no, che, vabbè, i brasiliani che vengono in Italia mi fanno sempre venire qualche sospetto. Non so perché i brasiliani che sono in Italia, però vabbè. Sì, ma non ho una voce, ma non ho una voce da trans, faccio il fisioterapista. Ma non ho detto niente, io ho detto mi fanno venire qualche sospetto, ma mica io sono, cioè conosco una marea di trans brasiliani, sono tutte delle persone meravigliose, per carità. Allora, appunto, però. Vabbè, allora dire, che vuoi, dimmi. Però appunto, voglio appunto dire che va bene aiutare gli altri, ma devono essere aiutati in un giusto modo. Il signor Parenzo, il signor Parenzo è italiano. Adesso noi ci troviamo in una situazione dove per la questione del il brasiliano dice prima gli italiani, capito? Il brasiliano che è qui in Italia dice prima gli italiani, giusto? Sì, vabbè, pazzesco. Io dico, ma io mi sento italiano, perché? No, ma non sto dicendo chi niente. Chi mi dà da mangiare? Non lo so, lì, ma anche la gente che viene da te a farsi massaggiare, a farsi curare, a farsi rimettere le cose a posto. Vabbè, Sergio, mi ha rotto il cazzo. Capito, mi hai capito, rotto mi il cazzo! Ciao, ciao, ciao. Allora, Francesca da Roma, Francesca da Roma. Pronto? Ciao Francesca, dimmi, dimmi. Ciao, sì, guarda, io volevo rispondere all'ascoltatore che ha detto del pisello con i peli che aveva lanciato il sondaggio. Ah sì, il grande sondaggio, sì, il grande sondaggio che abbiamo lanciato prima con Parenzo, che non era molto contento di questo sondaggio. Lo vogliamo ricordare il sondaggio qual è? Donne, preferite un maschio glabro oppure coi peli? Oppure coi peli? Sì, sì, no, no, ma cosa sì? No, ho detto io, no, sì, no. Sì, sì. Allora, noi... Allora, come la figa pelosa, che comunque noi, è adesso noi, che Francesca, Francesca diciamo, no, Francesca noi. Da Roma, non è che noi, noi donne, lei, Francesca da Roma, cosa preferisce? Ma io preferisco il cazzo con i peli, ragazzi. Beh, questo è abbastanza semplice, una donna con i peli, Francesca da Roma è la donna hairy, diciamo, anche nelle ascelle, ha molte, le ascelle molto pelose, la figa molto pelosa, la conosciamo, ha sentito prima questo grande sondaggio che abbiamo lanciato e ha chiamato dicendo... dicendo che preferisce l'uomo con i peli. Perché chi ha paura dei peli sul pisello? Perché dicono che si incastrano in gola durante la pellizca. Questa storia qua è una putellania, non li da fare davvero i pompini. Questa è la questione. Parenzo. Cioè, a te, per esempio, non ho capito. Il pelo dell'uomo ti arrapa, cioè l'uomo glabro non ti ispira. l'uomo glabro mi fa un po' impressione, perché secondo me il pene eretto glabro è un po' da alien. Addirittura da alien. Pensa che è un po' da porno. Pensa che nei siti per scambisti, se tu vai a dare un'occhiata anche senza essere iscritto a nulla, non vado. No, ma vai a dare un'occhiata, è il paese reale, anche quello. Nei siti per scambisti, molti dicono, capito, preferiamo avere una coppia depilata. Cioè, molti specificano depilati, siamo depilati, vorremmo una coppia depilata. Ma preferiamo... perché si associa erroneamente alla depilazione la pulizia? Ma sì, è erroneo. Giusto, è vero, assolutamente. Erroneo. La ragione, totalmente erronea. La ragione è questa qua, cioè loro associano l'uomo o la donna, porcheria, naturalmente glabra, completamente glabra, a una sorta di pulizia, invece i peli alla sporcizia, perché trattengono le cose. È una cazzata mondiale, lo possiamo dire che è una cazzata mondiale? Sì. Anche tu ne sei consapevole, tu per forza, anche tu vivi con i peli, che ti escono fuori. Fantastici peli che sporgono dai pantaloncini. Però tu dici, e dunque di conseguenza, preferisci un uomo... un uomo con i peli, per esempio, anche durante quella che la Paolino, la nostra amica, il leccame pallamico, la Saulino, sì, ho confuso Paola Saulino con la Paolino, un'altra mezza matta, comunque quella che chiama il leccaggio del pallame, il leccaggio sì, un'altra del pallame. Mezza matta, dai, un'altra mezza leccaggio matta. Del pallame, sì, tu sì, lo preferisci, il leccaggio del pallame lo si preferisci, fa con i peli. Bravo, sì. Ma si fa con i peli, magari c'è gente che lo preferisce ma anche, senza, ma anche il leccaggio del culame mi azzarderei. Anche il leccaggio del culame, cioè a te non dà fastidio quando c'è, cioè, la presenza di peli in bocca dopo che succede naturalmente questa roba, no? No, non mi dà fastidio. Assolutamente, anzi, tu dici che la cosa no. vera è quella roba. Perché la realtà è sporca e puzza. Ciao. Bravo. Del telefonino, raga, senza perdere tempo, date in direct e digitate Brasiles_basso_official. Non vi preoccupate, ci messo il Brasile a farvi venire, non vi preoccupate, purtroppo per voi, per chi mi odia, il Brasile è un influente, è molto influente, c'ha la febbre, c'ha influenza, è misura della fratelli. Nel paese di mia moglie, un criminale come il Brasile sarebbe da un pezzo al gabbio nel braccio della morte. Una cella, una branda, una corta catena ai piedi che lo assicura un palo per limitare i movimenti. Non dicono il giorno dell'esecuzione. Quando sarà il momento, verrà prelevato alle 4 di mattina. Gli daranno un fobò, cioè una zuppa. Poi lo condurranno nel cortile, legato a un palo e fucilato. Così si trattano i criminali. Ma purtroppo il Brasile abita in Italia, un paese di merda, dove i criminali la fanno sempre franca. E siamo con Lorenzo dalla provincia di Firenze, anzi con Claudio da Brescia, velocemente. Lorenzo, dimmi, dai. Lorenzo, ma ciao Luciani, senti, io volevo intervenire sulla sentenza, sì, Lorenzo, dimmi, che ha penalizzato il poliziotto. No, non c'è sentenza per fortuna ancora. Ancora siamo alle accuse, cioè al rinvio a giudizio. Alle accuse, perfetto. Allora, follia, io trovo, viva il poliziotto e abbasso gli animalisti che rompono i coglioni. Assolutamente viva il poliziotto, a me hanno rotto i coglioni gli animalisti, nel senso che io non amo gli animali, d'accordo. E quindi c'è anche il diritto a non amare gli animali, a non volere un animale in mezzo ai coglioni, a non volere un gatto o un cane in mezzo ai coglioni. Io rispetto gli animali, rispetto coloro i quali amano gli animali. Io pubblicamente dico che gli animali non piacciono. Vabbè, allora? Ne ho pieni i coglioni di quando gli animalisti, senza se e senza ma, si schierano sempre dalla parte dell'animale. Vabbè, Claudio da Brescia, dimmi, che c'è? Ciao, Beppe, io volevo smentire subito Davide sul fatto che la Martani non lavora a nessuno, perché io la sposerei domani mattina all'istante. Ho capito, tu la sposeresti perché te la vuoi scopare e basta. Non appartieni a quelle caratteristiche. Sei vegetariano, tendente al vegano, sì o no? Tendente al vegano, perché non ti dico vegano perché mangio le uova, ma però ci sono un'altra serie di caratteristiche che ci vogliono. Cioè, non devi essere un assatanato di sesso, sono molto romantico.